dell'autorità apostolica, dichiaro che in virtù del privilegio concesso all'ordine dalla Santa Sede, dallo stesso momento in cui hai accettato la tua elezione, sei stato legittimamente confermato priore generale dell'ordine, con l'autorità che le costituzioni dello stesso ordine concedono ai priori generali, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. dell'ordine, i capitolari e tutti gli agostiniani che stanno qui presenti salutiamo il nuovo Priore Generale con un segno di obbedienza e di collaborazione.